Questo è un podcast di Rivista Militare. Da Tianjin a Pechino, l'oscurità e la profondità della Shanghai Cooperation Organization, di Alessandro Aresu. In un post sul social network Threw all'inizio di settembre, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato un'immagine di Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi in questi termini. Sembra che abbiamo perso l'India e la Russia nei confronti della più profonda e più oscura Cina, che possano avere un lungo e prospero futuro insieme. C'è da tempo un dibattito su quanto interventi simili di Trump vadano presi sul serio e in termini letterali. In ogni caso, il fatto che il presidente degli Stati Uniti si sia espresso in modo così netto ha mostrato la forza del cerimoniale del potere esibito dalla Cina nella riunione della Shanghai Cooperation Organization a Tianjin e nella parata militare di Pechino per ricordare gli 80 anni dalla vittoria contro il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Quegli eventi non sono stati ricchi di provvedimenti concreti, se si eccettuano gli accordi energetici tra la Cina e la Russia, né hanno portato alla costruzione di un nuovo ordine mondiale imperniato sul sud globale, secondo l'abusata formula spesso adoperata in occasioni simili. Eppure, il potere di convocazione della Cina è emerso non solo nei confronti del presidente russo e di figure come il leader della Corea del Nord Kim Jong, ma anche di Narendra Modi e di un protagonista della politica globale come il presidente turco Erdogan. Perciò questi incontri non vanno sottovalutati, come tutto ciò che coinvolge paesi che rappresentano una vasta parte della popolazione mondiale, il 42% in riferimento ai membri della Shanghai Cooperation Organization. Allo stesso tempo, gli incontri avvenuti in Cina non devono essere sopravvalutati. La Shanghai Cooperation Organization ha come membri sia l'India e il Pakistan, pertanto non può costruire un'alleanza strutturata. E soprattutto, i due paesi più popolosi del mondo, l'India e la Cina, continueranno ad avere un rapporto segnato da collaborazione in alcune aree e da profonde tensioni in altre. In questo senso, gli incontri di Tianjin hanno senz'altro segnato un momento di riduzione delle tensioni rispetto alla fase aperta con scontri armati tra India e Cina nel 2020 e che ha portato, tra l'altro, al divieto di numerose app cinesi in India, tra cui TikTok. Alla luce di queste considerazioni, per comprendere come i rapporti tra India e Cina possano evolvere nel medio termine, è utile considerare anche il ruolo degli Stati Uniti nella relazione bilaterale e tenere presenti altre tendenze strutturali che possono fornire una bussola nella profondità e nell'oscurità. In primo luogo, l'elefante nella stanza degli incontri tra Xi e Modi è senz'altro stato Trump, e in particolare le sue decisioni sui dazi verso l'India, motivati anche con la crescita di acquisti di idrocarburi dalla Russia da parte di Delhi. Vista la retorica adoperata da rappresentanti dell'amministrazione Trump come Peter Navarro, che peraltro non ha considerato i rapporti di lunghissimo corso tra l'India e l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, l'opinione pubblica indiana ha visto nelle mosse di Trump una guerra commerciale verso l'India, invece della più prevedibile guerra commerciale verso la Cina. Ciò ha portato a un deterioramento dei rapporti bilaterali, seppure in una situazione fluida. Nella prospettiva di lungo termine degli Stati Uniti, infatti, la durezza verso l'India potrebbe essere un passaggio tattico, basato sulla convinzione che, dovendo scegliere tra una delle due sfere, Delhi si schiererà da ultimo con Washington. Un interessante libro scritto nel 2019 da due intellettuali indiani, Samir Saran e Akhil Deo, si intitola significativamente Pax Sinica, Implications for the Indian Dawn. Prima della crisi bilaterale del 2020, quella visione indiana cerca di considerare la Pax Sinica di Xi Jinping come una sfida essenziale e un grande pericolo per l'India, ma allo stesso tempo insiste, anche in quel contesto, sull'opportunità da cogliere per la propria autonomia, al fine di posizionarsi come un attore di primo piano della scena internazionale. Secondo la tesi di Saman e Deo, la proiezione di potenza di Pechino attraverso la Belt and Road Initiative e attraverso altri progetti internazionali punta a creare una rete di dipendenze capace di minacciare la sovranità indiana. Tuttavia, per rispondere, l'India dovrebbe adottare un approccio pragmatico che sappia trarre insegnamento dalla Cina stessa. Saran e Deo ricordano a questo proposito come Pechino abbia beneficiato a lungo dei flussi economici americani, pur perseguendo una posizione non subordinata in termini politici. Invitano l'India a emulare questo modello. Delhi deve puntare a creare interdipendenze economiche con gli Stati Uniti e con altri attori in ottica anticinese, soprattutto sulla tecnologia, ma senza cambiare la propria posizione di fondo. L'autonomia indiana, in questo senso, si alimenta anche con la capacità tecnologica, per esempio con l'investimento sul programma spaziale, e con risultati che mostrano un volto innovativo dell'India e, in termini ancora più ambiziosi, col tentativo recente di rendere l'India un luogo più rilevante per la manifattura elettronica e per l'industria dei semiconduttori, recuperando il terreno perduto rispetto ad altre economie asiatiche al centro delle filiere tecnologiche. In questo percorso possono esservi rapporti commerciali di reciproca convenienza, tanto con la Cina quanto con gli Stati Uniti, ma anche contrasti. Si pensi, per esempio, a una questione davvero cruciale per le economie di scala, la geografia della manifattura di Apple. La spinta verso la diversificazione della produzione di smartphone dalla Cina rappresenta per Delhi un'occasione da cogliere. Un paese come il Vietnam, emerso come località alternativa per la manifattura di Apple, non può offrire le stesse condizioni nella forza lavoro e potenzialmente nella filiera rispetto all'India. L'India possiede senz'altro la scala che può, in teoria, sostituire la Cina. Eppure, allo stesso tempo, attirare la produzione degli smartphone destinati al mercato statunitense crea dinamiche di collaborazione, ma anche di conflittualità, tanto con la Cina quanto con gli Stati Uniti. Vediamo in che termini. La filiera dell'iPhone, essendo concentrata soprattutto in Cina, può migrare realmente solo attraverso gli investimenti da parte di aziende cinesi, che dovranno essere autorizzate dalla leadership politica di Pechino. D'altra parte, se l'India ambisce a prendere una fetta della produzione degli iPhone, nella prospettiva statunitense ciò ridurrebbe il rischio di concentrazione in Cina, ma non potrebbe rispondere all'esigenza, costantemente sottolineata dal presidente Trump, di una rinascita della manifattura interna. Non a caso Trump ha sollecitato più volte Tim Cook, CEO di Apple, a investire in capacità produttiva negli Stati Uniti e non in India. Da ultimo, esiste ed esisterà un contrasto tra gli obiettivi di una alba indiana su questo tema cruciale e quelli, almeno di breve termine, della politica statunitense. La Cina, rafforzando i suoi rapporti commerciali con l'India, mettendo tra parentesi i conflitti territoriali che non possono essere eliminati, può inserirsi in questa dinamica senza peraltro abbandonare il sostegno industriale e militare al Pakistan, evidente anche durante l'operazione Sindoor di maggio 2025. Ciò, come detto, non può portare a un'alleanza, ma può comunque intrecciarsi con la retorica e con la pratica dell'autonomia da parte di Delhi. Un altro ambito da monitorare per comprendere alcuni rapporti più profondi tra India, Cina e Russia rispetto alle foto della Shanghai Cooperation Organization riguarda la discussione sulla cosiddetta de-dollarizzazione, su cui vi sono stati anche alcuni interventi del presidente Trump verso i paesi BRICS. La supremazia del dollaro nelle transazioni internazionali resta netta, ma vi sono segnali di riduzione della quota di dollari nelle riserve valutarie di alcune banche centrali. La Russia e la Turchia rappresentano due degli esempi più significativi in questo senso. Anche da parte di Cina e India l'acquisto di oro e la tendenza alla de-dollarizzazione dei mercati delle materie prime corrispondono a una essenziale ricerca di protezione dall'apparato sanzionatorio degli Stati Uniti, che nelle sue varie diramazioni può colpire la libertà del commercio di questi paesi. La tendenza, da questo punto di vista, non è una de-dollarizzazione tout court, ma è la creazione e la difesa, con sempre più determinazione, di alcune sfere che possano commerciare tra loro senza essere sottoposte al potere del dollaro con i rischi sanzionatori che esso comporta. In sintesi, gli eventi di Tianjin e di Pechino possono essere contestualizzati e compresi in più profondità seguendo il percorso dell'alba indiana, dei rapporti e contrasti sulla trasformazione delle filiere elettroniche e sulle reciproche convenienze verso il dollaro. saranno alcune delle tendenze che contribuiranno a plasmare i rapporti tra Cina e India del prossimo futuro. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.